Economia in pagina di Gianfranco Fabi. Buonasera, buonasera ai nostri ascoltatori. Questa sera parliamo di un libro dedicato alla storia del sindacato e lo facciamo con uno dei protagonisti del sindacato negli ultimi anni, in particolare della CISL. Buonasera Raffaele Bonanni. Buonasera, buonasera. Raffaele Bonanni ha scritto insieme a Giuseppe Sabella, che anche lui è con noi questa sera. Buonasera Sabella. Buonasera direttore. Ha scritto il libro Digitale e potere collettivo da Marco Beagi a Industry 4.0. In questo libro c'è un po' la storia, una storia dell'avventura, possiamo chiamarla, vi permetto di chiamarla così, sindacale di Raffaele Bonanni in questi ultimi anni alla guida della CISL, un'avventura appunto che si è incrociata con molte problematiche della società italiana, problematiche appunto in primo luogo del mondo del lavoro, ma con una forte appunto attenzione anche ai processi di innovazione, ai processi di cambiamento molto radicali che sono avvenuti in questi ultimi anni. E allora, Raffaele Bonanni, perché mettere questa esperienza molto, molto viva, molto attuale, in un libro? Ma intanto perché fare memoria è importante sia per chi ha vissuto quei momenti, è vissuto in quel contesto, e sia per i giovani che devono vivere la loro storia. La storia è sempre importante per saper guardare con fiducia verso il futuro. Raccontare queste vicende è importante, ma raccontare vicende che sono state nel crinale tra il vecchio mondo della produzione, il vecchio mondo dell'economia, il vecchio mondo del mercato, col nuovo mondo del produrre, del mercato e così via, perché siamo in un crinale davvero molto importante e molto interessante, credo valga la pena discuterne, vale la pena appunto fare memoria. Ecco, anche perché è stato un passaggio molto delicato, molto complesso anche quello che è avvenuto in Italia, quello che sta ancora avvenendo in Italia. Io vorrei chiedere proprio a Giuseppe Sabella, guardando dall'interno, Sabella è un profondo conoscitore dei movimenti sindacali, che cosa ha rappresentato in fondo l'esperienza di Bonanni alla guida della CISL? L'esperienza di Bonanni alla guida della CISL è proprio quel patrimonio che oggi si sta tentando di mandare a sistema. Bonanni è il grande destrutturatore delle relazioni sindacali degli ultimi 15 anni, è il protagonista assoluto del caso Fiat, però attenzione, il caso Fiat è preceduto da quello che oggi resta, l'ultimo accordo interconfederale del 2009, dove ci sono i principi che poi trovano applicazione nel contratto di Pomigliano. E Bonanni è il grande regista di quell'accordo, accordo però che non viene firmato dalla CGIL, quindi sì, resta un accordo separato. Oggi però, con il rinnovo del contratto metalmeccanico, abbiamo un importante documento che risulta condiviso e che può gettare le basi per un nuovo accordo interconfederale, su cui però le confederazioni ancora non capiamo quali siano, che intenzioni abbiano. Ecco. Ecco, però è stato particolarmente interessante e cioè, rilevante dal profilo politico, dal profilo della storia sindacale, la vicenda proprio della Fiat con la capacità di questa azienda di cambiare pelle, di cambiare veste, e con la capacità di una certa parte del sindacato di creare dei rapporti nuovi di collaborazione. Ecco, Raffaele Bonanni, possiamo proprio vedere nel fatto di superare il tema del conflitto a tutti i costi tra operai e imprese, tra proletari e padroni, in una forma nuova in cui le sorti dell'azienda sono in fondo anche le sorti dei lavoratori. La partecipazione è un elemento fondamentale. Raffaele Bonanni. Ma non c'è lavoro senza un'azienda e non c'è lavoro buono senza un'azienda sana. E oggi più che mai gli imprenditori, i manufatturieri, coloro che producono con i lavoratori, hanno interessi comuni, ma anche nemici comuni. Hanno il nemico tasse, hanno il nemico Stato indifferente rispetto alle esigenze della produzione, hanno il nemico finanza che mangia tutto e non sostiene tutto ciò che è economia reale. Quindi oggi più che mai il conflitto storico tra lavoratori e imprese non ha motivo di esserci. Anzi, ci deve essere un'alleanza fortissima sui fatti generali e poi una regolazione di come, per quanto riguarda le vicende di produzione, dividersi non solo la ricchezza che si produce, ma discutere di tutto ciò che porta alla ricchezza. E lo devono fare in azienda, perché lì è il luogo della costruzione del benessere dell'impresa e del lavoratore. Ecco, Bonanni, c'è a proposito della conclusione del libro un appello molto forte alla dignità del lavoro, alla dignità del lavoro che nasce in fondo anche da tutta la dottrina sociale della Chiesa, dai documenti dei pontefici, che nasce appunto da un'esperienza profondamente vissuta e appunto in conclusione ricorda la lettera di San Paolo ai Corinzi: chi pianta e chi irriga sono una medesima cosa, ciascuno riceverà la propria ricompensa secondo il proprio lavoro. Ecco, questa dignità del lavoro è la dignità della persona, la dignità della persona che in questo mondo, non a caso nel titolo c'è proprio la parola digitale, c'è tecnologia, rischia di essere un po' appannata. Un nuovo compito del sindacato è proprio difendere questa dignità. Beh, difendere questa dignità tenendo in piedi una cultura che deve vivere ancora di più in momenti come questi. La persona attraverso il lavoro costruisce la propria dignità, la propria personalità, e poi non solo per chi crede ma anche per chi crede, è proprio il destino di ogni persona il lavoro, perché noi nasciamo proprio per impegnare i nostri talenti, la nostra intelligenza, la nostra intraprendenza. Quindi il lavoro è il luogo di realizzazione per una persona. Senza il lavoro una persona non esiste, è come un arnese costruito e mai utilizzato. Quindi oggi più che mai, anche con le nuove tecnologie, io penso allo smart working, tutti lo vedono come un grande problema, con grande diffidenza, ma lo smart working, le tecnologie, il digitale riconduce il lavoratore a conoscere tutto il processo di lavoro, lo fa riappropriare del processo e dell'opera del lavoro, al contrario del fordismo, che gli ha dato solo un pezzetto, un compito di lavoro che non li fa mai conoscere al lavoratore tutto il resto. E quindi è una grande opportunità, non solo perché si lavora in uno spazio diverso e in un tempo diverso, conciliando famiglia e lavoro, risparmiando molto tempo e guadagnando molta, molta libertà, ma di riappropriarsi del lavoro, e ha un profondo significato spirituale un fatto del genere, oltre che di alleviazione di molti problemi odierni, per esempio del produrre, dello stare in produzione. Ecco, è questo, che un sindacato sia appunto vicino a queste nuove forme, consideri queste nuove occasioni come delle opportunità e come non dei pericoli, come delle opportunità ovviamente da gestire e da governare, è comunque un elemento essenziale perché la sua età possa cogliere tutti i frutti di questa innovazione tecnologica. Sì, però resta... certo, non bisogna essere luddisti affatto, ma bisogna guardare alle nuove tecnologie come con un nuovo e importante orizzonte dove collocarsi. Il mondo va avanti, anche nel libro io dico benissimo, non bisogna disperare del fatto che si supera la diligenza e si va verso la ferrovia. Certo, sì, si smarriranno le abilità per costruire i finimenti dei cavalli, si perderà il lavoro per chi produce biada o altro, però nasceranno altri mestieri. Il problema odierno non è essere luddisti, ma colmare in modo molto molto veloce il tempo che ci vuole di passare da certe abilità del lavoro a nuove abilità del lavoro. Ecco perché la istruzione e la formazione sono gli ingredienti più importanti, e con il mondo digitale è tutto più possibile, alla condizione che si sia consapevoli. Le imprese, i lavoratori, le istituzioni devono lavorare in questo senso. Ecco, vorrei chiedere a Giuseppe Sabella il ruolo del sindacato in questa fase. Le proposte di Bonanni sono molto innovative, il sindacato ha anche un compito di un po' lottare contro il pregiudizio antiindustriale che c'è in Italia, una cultura antiindustriale, si cita proprio nel libro questo. Il sindacato sta portando avanti questa novità, questa capacità di offrire la possibilità di sfruttare le opportunità dell'innovazione, Giuseppe Sabella? Credo innanzitutto che stiamo andando incontro, anzi ne siamo già dentro, a un processo di trasformazione dello stesso sindacato. Sarà sempre più importante chi fa i contratti e meno il salotto televisivo, che poi normalmente è il salotto delle burocrazie romane. Si permetta la parola, però insomma il salotto delle confederazioni per lo più. Però rispetto al discorso culturale che lei sta facendo, direttore, io dico anche questo, cioè le organizzazioni datoriali non si possono limitare al contratto che fanno i loro associati, cioè in questo paese è sempre venuta meno la voce dell'impresa, questo secondo me è un po' per responsabilità del mondo datoriale e non solo del sindacato che ha sempre un po' spinto ma anche comprensibilmente i suoi interessi, cioè io non ho mai visto nei miei 44 anni di vita una manifestazione degli imprenditori, io vorrei vedere gli imprenditori in piazza un giorno. Beh, c'è stata quella di 40.000 a Torino, ma forse appartiene un po' alla storia, più che gli imprenditori era un riflesso e una protesta contro il fatto che si occupavano troppo a lungo le fabbriche. Un'ultima battuta da Raffaele Bonanni. Comunque possiamo guardare con ottimismo, facendo anche gli auguri per il Natale il prossimo anno. Raffaele Bonanni. Ma dobbiamo guardare con fiducia tutti che mettono in piedi discorsi appunto che ci fanno guardare con diffidenza il nuovo, ciò che il futuro che noi dobbiamo affrontare. E invece il futuro è la vera occasione per perpetuare appunto la vita del mondo, la vita dell'uomo, la cultura dell'uomo, le culture e così via. Quindi dobbiamo guardare con fiducia attraverso l'impegno, attraverso l'impegno coraggioso. Questo riguarda anche per le realtà di rappresentanza che oggi sono rattrappite perché sono ripiegate sulla loro storia e non capiscono che la loro storia è importante a condizione che si costruisca una nuova storia. Io sono molto d'accordo con Sabella, gli imprenditori ma anche i lavoratori attraverso le loro associazioni devono quando si dice devono rinnovarsi, che significa? Che sembra ambigua questa questione. Significa affrontare con più coraggio, con meno timore, gli obblighi che hanno, quegli obblighi pesanti ma così importanti nei momenti di passaggio. Questo momento di passaggio non possono appunto ripiegarsi solo sul vissuto, devono costruire una nuova storia. Per fare questo devono stressare la loro presenza, devono stressare la loro iniziativa e poca gente vuole stressarsi, questa è la verità vera. Grazie mille, grazie a Raffaele Bonanni per questo appunto questo richiamo anche all'impegno, un impegno che è anche un augurio che si possano appunto affrontare i problemi, guardarli in maniera positiva. Grazie anche a Giuseppe Sabella di essere stato con noi, abbiamo parlato del loro libro Digitale e potere collettivo da Marco Biagi a Industry 4.0, edito da Cantagalli per 160 pagine, il prezzo di 15 euro. Grazie a quanti ci hanno ascoltato, auguri di buon Natale e buon anno a tutti.